classic chick. See, I need chick. The C's part of makes me tick. Mama, hey, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a stick chick. Hey, yeah, yeah, yeah. The hot heels on for the baby blues. What a sack. Hey, yeah. Hey, yeah. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, hey, yeah, yeah. It was a night. Hey, yeah. Hey, yeah. Everybody stop, we're on a dime to look. Hey, yeah. Hey, yeah. Even my heart, my heart got a shook. Hey, yeah. Hey, yeah. She's my clickety click, I'll stick you. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, see you mine. I said, oh, I gotta stick you. She's a neat trick, but she water makes me tick. Mama, clickety click, I'll stick you. Yeah, don't you know she's a stick? Mama, clickety click, I'll fix it. Yeah, yeah, I gotta click a little chick. I don't you know she's slick. Ben ritrovati e ben ritrovate, Slick Chick, con un po' di ritardo, ma insomma ormai tanto siete abituati e abituate, Radio Wombat ovviamente, Slick Chick, trasmissione che ogni mercoledì intorno alle 8, beh diciamo più 8 e mezzo che 8, vi racconta dei mondi legati a una parola, mondi musicali principalmente, che però partono da una parola, da un vocabolo, un concetto in qualche maniera. E il concetto di oggi è un concetto impegnativo sicuramente, in tanti sensi, è la famiglia. Oggi parliamo di famiglia, in omaggio anche alla giornata di sabato. Giornata di sabato ne parleremo poi nel corso di questa puntata, che penso verrà ricordata alla storia come la giornata con più cortei almeno degli ultimi anni, e ci sono milioni di cortei in tutta Italia. Beh, insomma, d'altra parte è un periodino che lo merita, ecco, lo esige di stare continuamente in piazza. E quindi sì, sabato c'è una sequela di cortei variegati, tra cui anche il corteo a Verona, proprio dedicato alla contestazione del modello familiare univoco, patriarcale e eteronormato che ci vogliono propinare. Beh, diciamo che ce lo propinano da millenni, ma in particolare adesso c'è un ritorno di fiamma e si vorrebbe ancora di più, se non bastasse, ancora di più stringere il morso, stringere la cinghia anche e rendere il tutto ancora più asfissiante. Ma insomma ne avremo da parlarne di sia di sabato che in generale, insomma, della famiglia, del concetto di famiglia. E per farlo mi avvalgo, oltre che di un sacco di bellissima musica, come al solito, insomma, come Slick Chick è abituata, ma mi avvalgo anche di un piccolo, delle parole di un piccolo opuscolo che si chiama La famiglia è una nocività patriarcale, incursioni anarcofemministe. Un piccolo opuscolo, appunto, autoprodotto, fotocopiato e distribuito, trovato in un banchino, così, in una delle tante distribuzioni e info shop che amo frequentare e che anzi vi sollecito a frequentare anche voi, perché è proprio lì che si trovano le cose più interessanti, le cose che vi erano un po' sfuggite ed erano sfuggite alla massa, ecco. E tra questo piccolo opuscoletto edito da La Magnada dell'Oboas, poi insomma vi spiegherò un po' meglio chi sono. Ed è a sua volta tratto da un libro, uno scritto più complesso, più ragionato e sicuramente più lungo, che si chiama Foucault para Encapuchadas, scusatemi il mio terribile, insomma, la mia terribile pronuncia spagnola. In particolare si tratta di una pubblicazione autoprodotta che arriva dall'Argentina, è stato pubblicato nel 2014. Vi leggo alcuni pezzettini ogni tanto all'interno di questa scaletta, giusto per... secondo me questo opuscoletto è piuttosto interessante, magari non condivido tutto al 100% ogni singola parola e magari direi le cose in maniera diversa o insomma chissà, però secondo me è un'ottima riflessione, un ottimo spunto, è molto interessante e sicuramente, ecco, di questi tempi serve un bel po'. Ecco, e iniziamo con questo piccolo intro. In questo tempo rigurgitante discorsi sui diritti civili delle minoranze sessuali, nel momento più caldo di polemica mediatica su unioni civili, matrimoni gay, famiglia naturale, tradizionale, versus famiglie alternative, dalle coppie di fatto alle famiglie arcobaleno, in cui parole ieri sconosciute come omogenitorialità sono entrate nel gergo di tendenza dei mass media, si assiste all'assimilazione normalizzante verso il modello eteronormativo di famiglia e a un deprimente appiattimento del potenziale sovversivo anche laddove è in atto una critica di quel modello. Manca una vera e propria messa in discussione radicale della famiglia, nonostante l'esistenza di tentativi di superarla. Ma di quale famiglia stiamo parlando? Oggetto di questa analisi è la cosiddetta famiglia mononucleare tipica della società moderna. Appunto, vi dicevo, questo è un opuscoletto le cui autrici arrivano dall'Argentina. Queste riflessioni vengono dal contesto libertario latinoamericano, ce lo dicono proprio loro, e intrecciano analisi anarcofemministe con teorie queer, antispeciste e filosofie eretiche. L'intersezione, la famosa intersezione delle lotte, di cui insomma si dovrebbe approfondire più spesso. Un segno di distinzione ribelle del sapere accademico è la scelta da parte delle autrici di utilizzare una firma collettiva, Mañada de Lobas, ovvero Branco di Lupe. Questo librettino è stato tradotto da una compagna di Milano ed è stato stampato nel gennaio del 2016 e per saperne un po' di più vi dico il contatto subito della Mañada de Lobas: luddismo sexual contro x.tumblr.com. Allora, questa era la piccola intro, piccola, e poi più in là vi racconterò dell'altro. Ma iniziamo anche a sentire un po' di musica, perché non solo parole oggi, ovviamente, come Slick Chick ci ha abituato a fare, ma anche musica, appunto. E partiamo da un primo brano, che ovviamente per me, perlomeno, ma forse un po' anche per voi che ormai mi ascoltate da un po', ovviamente non poteva che non essere gli Sparks, uno dei miei gruppi preferiti di sempre, che vi chiamo, insomma, inserire nelle mie scalette proprio così, appena posso. Gli Sparks in questo senso hanno proprio parlato precisamente e quasi in maniera didascalica della famiglia. In My Family, l'album è Kimono My House del 1974, uno dei primi. C'è una sottile, proprio sottilissima, impercettibile vena di ironia, ma lo sentirete, insomma, quando il timbro di una voce dice tutto. We'll be right back. prima di parlare di decostruzione, ci dicono le Manada de Lobas, però facciamo un passo indietro. Una premessa ovvia. Le famiglie con un solo genitore sono qualcosa di comune e accettato, ma quando si prova a dare legittimità e costruire affettività e intimità altre rispetto al modello mononucleare papà, mamma, bambino, oddio papà mi viene brutto dirlo, scusate, c'ho un attimo di rigurgito antimilanese, babbo, ecco, mamma, bambino, a più cane o gatto attraverso pratiche o discorsi critici, allora è tutta un'altra storia. Mi riferisco a reti di relazioni più o meno fitte e allargate, molto diversificate tra loro, che non essendo riconosciute dalle istituzioni, prima o poi vedono ostacolate le loro possibilità di autodeterminarsi, soprattutto in casa, in caso di presenza di figli o figlie. Ma non solo, la riuscita di queste forme di relazioni alternative è ostacolata innanzitutto dalla interiorizzazione delle norme trasmesse da un'educazione affettiva e relazionale inculcata fin dall'infanzia. La socializzazione infantile influenza le nostre esperienze a tal punto da rendere difficile disarticolare il sistema di relazioni che conosciamo, fondato sulla coppia eterosessuale e monogama come prima base della famiglia. Esperimenti di decostruzione sono stati visibili fin dall'inizio del secolo scorso, ma il libero amore insegna, non sono arrivati a toccare il centro della questione. E i Ramones si fanno portavoce, loro malgrado, della continuazione del nostro discorso sulla famiglia. E in particolare loro che, insomma, un po' sembravano tutti fratellini, un po' ce li vogliamo immaginare come tutti una famigliola di piccoli Ramones, tutti uguali, no? Sono tutti uguali, per forza che sono tutti fratelli. E i Ramones, appunto, ci raccontano la loro di famiglia, che vi potete immaginare una famiglia meravigliosa e idilliaca, piacerebbe molto alla Meloni, secondo me. Rocket to Russia, Russia del 1977, l'album che contiene questa We Are a Happy Family. Casino, casino di famiglia

each other out, yeah. Nobody wants to blow, nobody wants to be left out. You can't leave, your heart is there. You can't stay, you've been somewhere else. You can't cry, cause you look broke down. But you're crying anyway, cause you're all broke down. It's a family affair. Questo era Iggy Pop, l'avete riconosciuto, la voce è abbastanza inconfondibile, e Family Affair, che in realtà è una cover, qualcuno di voi forse l'avrà riconosciuta, una cover del 1985 di Iggy, appunto l'omonimo brano Family Affair, un famosissimo brano degli Sly and the Family Stone, un classico direi del 1971, Affari di famiglia, ecco, ne avremo a che parlarne degli affari di famiglia. Sempre dalla manada de Lobas, anche nelle comunità in cui si cerca di vivere in modo diverso attraverso forme di relazioni secondo un'etica libertaria, rifiutando rapporti autoritari, possessività, gerarchie e anche di produrre figli, spesso si tendono a ricreare ruoli paralleli a quelli della famiglia. Li abbiamo talmente interiorizzati che anche quando vogliamo ricreare altre alleanze e forme di vita automaticamente, mettiamo in atto vecchi modelli. Ancora regna l'idea che la relazione di coppia sia il massimo della vita, il tipo di relazione di serie A, mentre l'amicizia è di serie B, che realizza al meglio le aspettative, i desideri e la necessità degli individui. Bisogna purtroppo ammettere che anche negli ambiti in cui questo dogma viene messo in discussione non esistono modelli vincenti tali da sostituirlo in un batter d'occhio. Reinventare forme di relazioni liberanti è un lungo e non semplice cammino di decostruzione, anche perché comporta il superamento di certe forme di dominio interiorizzate. Sì, ovviamente noi stiamo ragionando qui a Slick Chick di cose piuttosto profonde, approfondite e bellissime, e poi certo ci troviamo a difendere ben di peggio, nel senso che purtroppo in piazza a Verona questo sabato siamo proprio alle basi, cioè non solo appunto noi ci difendiamo e ragioniamo su nuovi modelli relazionali di famiglia o di non famiglia e quant'altro, ma qui proprio siamo all'anno zero. Vi leggo quindi e vi inizio a dare conto del corteo che ci sarà appunto sabato 30 marzo a Verona alle 14:30 con partenza dalla stazione di Porta Nuova. Corteo transfemminista, e vi leggo un estratto dal comunicato di convocazione di Non Una di Meno. E se volete leggerlo, io purtroppo non posso leggervelo tutto perché è veramente lunghissimo, ma in realtà ovviamente molto interessante, e vi invito appunto a leggervelo per intero, e potete farlo sul sito di Non Una di Meno nazionale, nonunadimeno.wordpress.com. Nella famiglia patriarcale eteronormata si produce e riproduce un modello sociale gerarchico e sessista. È il luogo dove si verificano la maggior parte delle violenze di genere ed è il dispositivo che riproduce la divisione sessuale del lavoro e dell'oppressione. Inoltre, la famiglia è uno strumento ideologico utilizzato per scopi razzisti quando è utilizzato per sostenere la riproduzione dell'identità nazionale della pelle bianca. Per questo ribadiamo che la libertà di autodeterminazione delle donne e di tutte le soggettività LGBTQI più non può prescindere dalla libertà di movimento delle e dei migranti. La violenza dei confini si esprime su territori e sui corpi delle donne, delle persone che li attraversano. Questa idea di famiglia sarà il cuore del Congresso Mondiale delle Famiglie, World Congress of Families, il WCF, che si svolgerà a Verona il 29, 30 e 31 marzo del 2019, e per questo le femministe e le transfemministe di Non Una di Meno, insieme ad altri movimenti italiani e internazionali, occuperanno con rabbia, determinazione e favolosità la città. Il congresso sarà co-organizzato dall'amministrazione locale e patrocinato, ci mancherebbe direi, dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per la Famiglia e la Disabilità e della Regione Veneto. Vi prenderanno parte il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, anche questo ci mancherebbe, il Ministro per la Famiglia e la Disabilità Lorenzo Fontana, non ci avesse a mancare, il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, il Senatore della Lega Simone Pillon, insomma un sacco di bella gente. In questi nomi noi riconosciamo i principali promotori della violenza eteropatriarcale e razzista e della sua istituzionalizzazione. A loro e a tutti quelli che con loro si riuniranno in nome dell'oppressione e dello sfruttamento, noi opporremo la forza di un movimento transnazionale di liberazione. Questo un primo estratto, vi invito anche a, oltre che a informarvi sul sito di Non Una di Meno, anche a dare un'occhiata all'evento Facebook fatto da Non Una di Meno Firenze, la pagina Facebook è Non Una di Meno Firenze, dove trovate anche tutte le indicazioni per partecipare da Firenze se volete andare in pullman con i pullman organizzati appunto da Non Una di Meno Firenze. La partenza in questo caso è da Firenze alle 9.30 da Viale Aldo Moro e di fronte allo Biol, anzi al Tuscany Hall come si chiama adesso, e il rientro è previsto in serata per le ore 23. Il viaggio costa 15 euro andata e ritorno, un prezzo quindi politico, e ovviamente serve la prenotazione. Per farlo appunto vi invito ad andare sulla pagina Facebook di Non Una di Meno Firenze. Questo è quanto per questo primo corteo, poi vi darò conto anche dei seguenti perché, come vi dicevo all'inizio trasmissione, ce ne saranno moltissimi e non tutti riguardanti la famiglia, ma anzi è una varietà molto bella secondo me quella che potremo osservare sabato 30. Tra l'altro vi già dico in anteprima che faremo una diretta qui in Radio Wombat e cercheremo perlomeno di seguire un po' tutte le piazze che da nord da sud manifestano contro questo schifo di mondo. Insomma, rimanete anche qua sintonizzati su Radio Wombat, proveremo appunto a darvi conto un po' di tutto. Ma proseguiamo perché la scaletta è lunga e sto parlando anche troppo. Nina Simone è la prossima che con The Family ci parla della sua famiglia. Nina Simone, beh, no, non so se è proprio la sua di famiglia, ma insomma ci potrebbe pure stare. Comunque Nina Simone, nativa della Carolina del Nord, è la sesta di otto fratelli. E insomma, se un po' conoscete la biografia di Nina Simone, di cui adesso non c'è tempo di parlare, già vi siete fatti un po' un'idea. L'album del 1978, Baltimore, è un album un po' particolare dove Nina Simone affronta degli stili dei generi musicali che non sono proprio quelli a cui siamo abituati, a cui ci ha abituato, ma spesso con risultati molto belli invece in realtà. Questo The Family è piuttosto interessante. Qualcuno riguardo a questo brano ha scritto un quadretto bucolico appeso al contrario. Secondo me è un'ottima definizione per raccontare questo The Family di Nina Simone. The weevils all took the cotton and the cows all Senza particolari complicazioni, 15 generazioni delle mie hanno tutte onorato la natura finché non sono arrivato io con un incredibile stile. La decisione è mia, quella di porre fine alla discendenza familiare. Queste più o meno sono le parole di Morrissey quando in I'm the End of the Family Line ci racconta effettivamente con uno stile impeccabile la sua decisione di appunto non riprodursi e mettere fine alla linea familiare, così viene chiamata letteralmente, quindi insomma la discendenza della propria famiglia. Questo è lo stilosissimo e bellissimo e meravigliosissimo Morrissey. With no complication, 15 generations of mine. All honoring nature until I arrive with incredible style. Out into the seeding world by chance or whim or even love. Our family tree hacked into decline, and I'm spared the pain of ever saying goodbye. Invece poi adesso passiamo ai Madness. I Madness anche loro in qualche modo hanno parlato della famiglia, e come sempre, ecco, in questa scaletta insomma si parla di famigliole allegre e felici e sicuramente disfunzionali, ma sicuramente anche molto frequenti, per non dire quasi la norma così tanto ricercata, e siamo sicuri che la norma sia proprio quella che ci raccontano. Forse la norma in realtà è tutt'altro, e le famiglie sono molto più scomposte, sconclusionate e spesso disfunzionali, ma anche disfunzionanti di quanto ci vogliano raccontare. I Madness, allora, la storia è questa: c'è una bella famigliola felice, proprio allegra, e il figlio va dal babbo e gli dice: babbo, ho trovato una ragazza che mi piace tanto e la voglio sposare. Oh, che bello. E il babbo fa, ragazzo mio, ecco, ti devo dire di no perché la ragazza è tua sorella in realtà, ma la mamma non lo sa. Allora il ragazzo disperato, sconsolato, va dalla mamma e gli racconta tutto. Cioè, comunque non è infame, è una spia, vabbè. Comunque sì, va dalla mamma, gli racconta tutto e la mamma si mette a ridere e gli dice, beh, tuo padre non è tuo padre, ma lui non lo sa. Questa è Shame and Scandal dei Madness. Sai che palle se le famiglie fossero come tutte come quella che vuole la Meloni? Cioè, mamma mia, sarebbe da impiccarsi subito. Meno male non è così. Allora, proseguiamo nella nostra scaletta e in realtà riprendiamo la magnata del Lobas. Attraverso l'idea di amore romantico, la coppia monogama, ma ancora prima i ruoli di genere, gli stereotipi sessuali che costituiscono la struttura delle relazioni normate, il sistema sociale vigente produce, nel quadro di questa civiltà patriarcale, dei mandati sessuali che perpetuano in maniera straordinariamente efficace il regime politico dell'eteronormatività. E attraverso la famiglia instaura una forma di relazione di dominio, possesso, controllo e sfruttamento verso le persone e logicamente le altre forme viventi. Leggendo al contrario, invece, in questa dinamica di relazione affettiva di tutela-dipendenza, partendo dal nucleo della famiglia, si arriva alla legittimazione dello Stato. Le autrici partono dalla radice, dal significato semantico della parola famiglia e individuano nella sua struttura il nucleo di riproduzione di relazioni autoritarie e coercitive che non è possibile trasformare o migliorare per loro stessa natura. Distruggere queste relazioni con passione è la sola cosa da fare, riappropriandosi così dell'odio che la socializzazione infantile ci ha vietato di esercitare in una liberazione del desiderio già contaminato dal mondo in cui siamo, dalle gabbie prestabilite, dall'identità, verso forme inclassificabili di autosoggettivizzazione, passioni e potenze mai fisse in divenire. E quindi questo ci porta agli Undertones. Gli Undertones, album omonimo di Undertones, 1979, Family Entertainment. Vi dicevo, inizio trasmissione e nel proseguo, che sabato appunto non c'è solo Verona, ma ci sono molti altri cortei, tra cui uno qui a Firenze, che è molto importante seguire, non perché gli altri non lo siano, ma insomma qua si tratta del territorio che frequentiamo quotidianamente, che abbiamo sott'occhio tutti i giorni. Si tratta della Piana. La Piana non si arrende al potere del denaro, un corteo contro le nocività, per il Parco della Piana, per tutti e tutte, riprendiamoci salute, lavoro e territorio. Corteo appunto sabato 30 marzo, ritrovo alle 14.30 al Polo Scientifico in via dello Smannoro a Sesto Fiorentino. Sì, che altro vi posso dire? Il percorso è dal Polo Scientifico, passando per lo Smannoro e via Pratese, un percorso che insomma abbiamo visto spesso e negli altri anche cortei che abbiamo fatto, che abbiamo solcato in difesa della Piana e contro le nocività. Il corteo raggiungerà poi l'aeroporto di Peretola con arrivo al nuovo parcheggio scambiatore di viale Luder. E all'arrivo interventi e musica come ogni corteo più o meno. Per il ritorno vi avverto mezzi pubblici perché sennò la traversata potrebbe essere un po' lunga, bus 30 per Campi, tranvia per Firenze e gli organizzatori stanno predisponendo anche un bus navetta per il polo scientifico. Promosso questo corteo da movimenti, comitati e associazioni per la tutela della piana a Firenze, Prato, Pistoia. Vi leggo anche qui, non ho tempo di darvi conto di tutto il comunicato che invita a questo corteo, ma ve ne leggo un pezzetto. No al progetto del nuovo aeroporto di Firenze, perché altera in modo irreversibile l'equilibrio dell'ecosistema della piana e minaccia la salute di tutte le popolazioni. Da Firenze a Prato a Pistoia è incompatibile con il parco agricolo della Chiana è un altro posto, con le attività del polo scientifico di Sesto e della scuola Marescialli. In un territorio già saturo di funzioni urbanistiche e di fonti inquinanti, non c'è più lo spazio per realizzare in sicurezza una struttura aeroportuale da 5 milioni di passeggeri all'anno, con il suo pesante impatto sull'ambiente, emissioni, rumori, polveri, rischio idrogeologico e consumo di altri 380 ettari di suolo. La truffa delle compensazioni ambientali imposte dalla nuova pista non è accettabile. La deviazione dei fossi, la cancellazione delle zone umide aumentano il rischio idraulico. Lo spostamento del lago di Pereto, la Signa, è stato scambiato con la nuova viabilità delle Signe Indicatore, un intervento necessario e atteso dalle popolazioni da 50 anni. È ancora tutto da realizzare. E via via, molte altre parole e molte altre analisi interessanti che vi invito a leggere, le potete trovare sul blog della Piana contro le Nocività, pianacontronocività.noblogs.org. E noi ci vediamo in piazza invece, appunto, sabato 30 marzo, vi ripeto, alle 14:30 al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino. Anche qui, se siete azzoppati, avete motivi gravissimi per non esserci, lavorate o quant'altro, potete ascoltare la diretta del corteo appunto dai nostri microfoni su Radio Wombat, sabato pomeriggio. Vi ricordo anche che in preparazione a questo corteo, giovedì 28 alle 21:15 al CSA Next Emerson, ci sarà un'assemblea pubblica proprio per questo corteo, insieme al presidio NOINC Noaero. E quindi, insomma, può essere una buona occasione per informarsi un po' di più, fare due chiacchiere e capire anche le prospettive e lo spirito con cui viene organizzato questo corteo. E torniamo alla nostra scaletta. Qui questi cortei sono tantissimi, ma noi adesso ci fomentiamo un po' con un altro gruppo che ci parla della famiglia e ovviamente non ne parla bene. E sono gli Anthrax. Gli Anthrax, forse non ve li aspettavate, ma andavano messi. Keep It in the Family, un pezzone. Keep It in the Family, the real world outside your door. Deve restare in famiglia, il mondo vero, il mondo reale è fuori dalla tua porta. Quel senso di morbosa chiusura che nasce in famiglia, ecco, un po' di questo parlano gli Anthrax, e poi che si replica poi al nostro approccio con l'altro. Beh, gli Anthrax ne parlano approfonditamente, direi, in un pezzo che dura un bel po', dura 7 minuti e 24, che io vi faccio ascoltare per intero. Sempre sabato 30, altri due cortei, come vi dicevo, insomma, ce n'è un po' per tutti. Un corteo a Torino e un altro a Roma, da nord a sud, come vi dicevo. Beh, d'altra parte, i nostri territori, le nostre città, le nostre periferie sono, e anche le nostre campagne, sono devastate ogni giorno dalla speculazione, dalla gentrificazione, dal turismo di massa, e da questo schifo di ordinamento sociale e politico in cui ci asfissia. E quindi ovviamente, e per fortuna, siamo in piazza, in tanti e un po' ovunque. Anche a Torino, vi dicevo, corteo blocchiamo la città sabato 30 marzo a partire dalle 15. Governanti e padroni tentano di soffocarci attraverso una normalità fatta di guerre, militarizzazione delle città, condizioni di sfruttamento sempre più dure, caccia agli immigrati e odio fra poveri. Vogliono togliere di mezzo chi cerca di contrastare il continuo inasprimento delle condizioni di vita e chi tenta di sovvertire quest'ordine sociale, come nel caso dei 13 compagni arrestati lo scorso febbraio. C'è chi continua a resistere e a lottare: Silvia, Antonio, Nicco, Beppe, Pozza, Stecco, Nico, Agnese, Sasha, Rupert, Giulio, tutte liberi. Sabato 30, appunto, a Torino, a partire dalle 15, e anche qua vi do come riferimento sia Radio Blackout, che probabilmente, immagino, farà una diretta dal corteo, quindi radioblackout.org, e comunque anche noi su Radio Wombat terremo d'occhio il corteo. E poi vi do anche come ulteriore spunto di approfondimento e di luogo in cui informarsi il nuovo sito appena varato, gancio.cisti.org, un calendario con gli eventi della città di Torino in particolare, e quindi anche lì potete trovare informazioni se siete da quelle parti o se ci volete andare. Poi dicevamo Roma, anche a Roma corteo importante, in quel di Rebibbia, corteo per difendere Aguzzano, i suoi casali e l'ambiente. Anche qua parliamo di speculazione edilizia, di devastazione del territorio e di distruzione dei nostri parchi e della poca natura che ci è rimasta intorno. Sabato 30 marzo a partire dalle 15:30 alla metro Rebibbia, questo è l'appuntamento a Roma, se qualcuno di voi si trova da quelle parti. L'appello anche qua è lungo, non ve lo posso leggere tutto, ma giusto per darvi un intro, una piccola introduzione: siamo i membri del forum per la tutela del parco di Aguzzano, coordinamento di realtà sociali, scuole, poli culturali, associazioni, comitati, abitanti dei quartieri Rebibbia, Ponte Mammolo e Casal dei Pazzi. Il forum, istituito il 9 febbraio in una partecipata assemblea al Casale Alba 2, si pone come obiettivo la tutela del parco e dei suoi casali. Nei mesi scorsi siamo venuti a conoscenza di un interesse della giunta del quarto municipio per il Casale Alba 1, uno dei 5 casali del parco regionale urbano di Aguzzano. Il piano d'attuazione del parco, punto fermo e a tutela di quest'area verde, prescrive la destinazione d'uso dei casali, attività socioculturali rivolte agli abitanti dei quartieri limitrofi. Con la delibera numero 21 del 12 dicembre del 2018, la giunta municipale ha invece stabilito di mettere a bando la concessione in valorizzazione per il casale Alba 1 con attività private anche a scopo di lucro, ma dai, a tema food, focalizzate sulla piazza, senza consultare, come prescritto, né l'ente gestore Roma Natura, né la regione, né tantomeno gli abitanti e le realtà del territorio. E beh, tutto il mondo è paese, anche qua, insomma, diciamo che piove sul bagnato, e anche a Firenze lo vediamo tutti i giorni come sempre più vengano strappati angoli e pezzetti di territorio e di natura che c'erano rimaste, per farci appunto fondamentalmente poi gira e rigira sempre e solo profitto. Questo quello che succederà in giro per l'Italia il 30, e ora però torniamo alla nostra scaletta, ci mancano soltanto due brani e il penultimo brano di questa scaletta di stasera è di Bruno Nicolai, che un po' ci rasserena. No, non è vero, non ci rasserena per niente, soltanto i toni rispetto agli Anthrax forse sono un pochino più distesi, ma in realtà il senso di tutto ciò lo è tutt'altro. Perché? Perché si parla dell'onorata famiglia. Si parla di questo brano è tratto dalla colonna musica del film L'onorata famiglia, uccidere è cosa nostra, sottotitolo, un film del 1973. E beh, un altro tipo di famiglia che in Italia piace tanto, direi. Due boss mafiosi, Antonio Marchesi e Don Peppino Scalise, che rivaleggiano per la speculazione edilizia nella città di Palermo. Direi proprio in tema, perfettamente, è questa la famiglia che piace alle istituzioni. Ma domenica 31 marzo abbiamo anche e soprattutto un altro corteo a Firenze, in realtà dal respiro un po' più nazionale, i confini, beh, anche internazionale direi, in corteo insieme alla comunità curda italiana per ricordare Urso e in solidarietà alla lotta di liberazione del popolo curdo. L'appuntamento questa volta è domenica, appunto, 31 marzo alle 15 in Piazza Leopoldo a Firenze, e ci vediamo in piazza anche questa volta, ma probabilmente, se non decidiamo di essere tutti e tutte in piazza, anche noi Wombati, ci sentirete anche dai nostri microfoni, ma vi invito assolutamente a uscire dalle vostre tane, dalle vostre case e raggiungere la piazza anche in questa occasione, anche domenica. Proseguendo, siamo in realtà alla fine, quindi concludiamo questa scaletta di oggi dedicata alla famiglia. Le ultime parole con cui vi lascio, tratte da questo opuscoletto di cui vi ho letto tutta questa puntata della Mañana de Lobas dall'Argentina, vi uso le ultime parole del libretto a conclusione che usano appunto le Mañana de Lobas. La famiglia non si riforma, si demolisce con la costruzione di affettività liberate. Senza malinconia, lasciamoci indietro il concetto di famiglia, vera relazione sadomasochista, autentico bondage shibari, che sì, possiamo sciogliere per costruire nuovi legami, esilio familiare verso l'allegria di vivere senza essere figli e figlie, senza essere madri, senza possedere nessuno. Queste le parole della Manada de Lobas, e con questo io vi saluto e vi do appuntamento a martedì prossimo con Slick Chick in diretta, sempre intorno alle 8, oppure se volete, preferite, in replica il venerdì alle 11 di sera, alle 23, oppure il sabato alle 16:30, tranne questo sabato perché suppongo di venire coperta dalla diretta dei 1000 cortei di cui vi ho parlato in questa puntata. Ma vi lascio nelle mani anche di Mezzosangue, che ci parla anche lui della famiglia, una famiglia un po' allargata, sicuramente disfunzionale e sicuramente non banale. La mia famiglia, l'album Three Roots and Crown del 2018, e con questo vi saluto. Ciao ciao! Mia famiglia sa chi sono, sa da dove vengo, sa quanto ci credo in questo suono e sa quanto ci spendo. La mia famiglia mi conosce dentro perché ha fatto un pazzo del mio petto, in ogni testa ce n'ho messo un pezzo. La mia famiglia ha mille volti, un solo nome e l'urla al cielo. Sa cantato il sangue per tenerlo vero, è fiera come Dio di me, come chi dà tutto e non perdona lei. Sa che sopra il cuore c'ho la firma a Roma. La mia famiglia ascolta, c'ha la testa buona, lei lo sa che questa musica gli parla e che non solo suona. Se ne sbatte di ogni modo perché sa che passa, ancora fissa il cuore duro sul rullante cassa. La mia famiglia abbraccia con la guardia alta e crede in me perché però in me vede un fratello che mo ce l'ha fatta. Zero Cristi e zero Giuda, brinda la sostanza, brinda la parola nuda, la famiglia larga. È uno sguardo dentro al petto a dirti non sei solo, è un sorriso che sa bene che non basta mai, né dare il massimo per niente né capisce al volo. È quella mano che ti sveglia quando non ci stai. L'empatia, sinergia, stessi passi falsi, stessa scia. Il magnetismo che ci incolla sulla stessa via. Non è il sangue, non è il nome, non la dinastia. La mia famiglia, la mia famiglia, la mia famiglia. La mia famiglia sa che ho i dubbi in testa, più di quanti crede, veste sporco perché sa quello che vede là. Mia famiglia ha sete, beve ciò che prova, manda giù emozioni come droga, vuole roba nuova. La mia famiglia sta in coda, in coma sopra le autostrade, a ruota con i film, nuota in mezzo a musiche dimenticate, affoga quando pensa, respira quando vive, impara a respirare mentre attenta uccide, intanto piange e ride. La mia famiglia ha spine che non sono sue, toglierle vuol dire sanguinare e mettere le tue. Lei giudica facile perché è facile vivere, ma qua giù vivere è facile, qua su facile dire. La mia famiglia distingue fra il mago e l'illusionista, e mentre sposta le cose col pensiero ci si impiglia. E la famiglia l'ho persa e riconquistata, e adesso ho aperto le ciglia. È uno sguardo dentro al petto a dirti non sei solo, è un sorriso che sa bene che non basta mai, né dare il massimo per niente né capisce al volo. È quella mano che ti sveglia quando non ci stai. L'empatia, sinergia.